Mezzi di luculo, rosica puella, congrega il combaculo, com la nanovella. Sonte in grega pavulo, ovis et asella, vitula cum vitulo, capa et capella. Sonte in grega pavulo, ovis et asella.